pari. Sì, te stesso e tieni sullo sguardo. Sei tu il protagonista, qua non conta nessun altro. È un gioco infido, ma vivilo pure se critico, pure se a volte ti rimane più di un livido. Giovane player, fatti strada tra la nebbia, spara colpi fino a che la tua pistola non si inceppa. Questa è una giungla, sai, non è una burla, vai. Fermarsi o cestinare tutto come un file. L'ho vissuto e ancora fotto con le problematiche di un'età senza certezze troppo statiche. North Sardegna, divampa il fuoco con la legna che ho raccolto proprio dove il marcio regna. Tenerlo vero è vitale, non farti abbattere dal primo cane. Resta sulle strade, nessuno sa quanto vale la tua mole, anche se a volte la positività muore senza valida ragione. Dalle mie parti la gente per bene è scarsa, e si fotte gente falsa per la voglia di rivalsa. E questo è come stanno i fatti, se non riescono a manipolarti non potranno mai fermarti. Siamo fieri, personaggi scomodi, teniamo duro se tutto va a rotoli. Già è così, se non mi danno tregua allora non ci sarà tregua, che al mio fianco alzi la testa e poi mi segua. Non è finito proprio niente, combatti, fatti valere a costo di far male tutti quanti. Questa va per i guerrieri sfidanti di un mondo che vorrebbe sotterrarci. Ma non sarà così, non è finito proprio niente, combatti, fatti valere a costo di far male a tutti quanti. Questa va per i guerrieri sfidanti di un mondo che vorrebbe sotterrarci. Ma non sarà così. La strada non è tua, io conquistala, lo dico mille volte a me stesso. Sfondo a porta più non posso, ancora reggo il passo dell'andazzo. Un cazzo che m'ammazzo, né che m'ammazzano, con lo schifo che c'è in giro ed io non mi ritiro. Imposto cori di battaglia, butto fuori la rabbia che c'ho dentro. Testardo, duro come cemento, armato di rime combatto. Bombe sull'asfalto, soldato a mento alto. Sono un altro scoppiato che non lo fa per soldi ma solo per passione. Questa è la distinzione tra me ed un mercenario. Piccolo dettaglio, scaglio rap Riot, eia proprio io che tengo un bagaglio di cose su cui andare fiero. Con il rap non vado mai leggero, come chi dagli spini passa all'ero. Messaggio serio, te lo mando in stereo, oh. Le palle per tirare avanti, davanti tanta strada, tanti infami. Nonostante ciò, fino a quando ci sarò, la percorrerò, sono lo tsunami. Incontrollabile, no, non mi placchi, su cosa m'attacchi, da dove m'attacchi. Muraglia cinese che non abbatti. Non è finito proprio niente, combatti, fatti valere a costo di far male tutti quanti. Questa va per i guerrieri sfidanti di un mondo che vorrebbe sotterrarci. Ma non sarà così, non è finito proprio niente, combatti, fatti valere a costo di far male a tutti quanti. Questa va per i guerrieri sfidanti di un mondo che vorrebbe sotterrarci. Ma non sarà così, non sarà così ragazzo. Se resti duro, lo tieni vero, non potranno mai fermarti. Sem 61 008 originali sfidanti in questo mondo che vorrebbe sotterrarci. E non è facile per un cazzo, ma non sarà, lo sai, ti giuro come